Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, bruxellando anche questa sera, martedì sera, un clima eccezionale qui a Bruxelles. Non mi sembra davvero di essere in questa città, siamo a fine ottobre e devo dire che sono entusiasta del clima che ci circonda. Questa è una puntata di festa con due ospiti molto molto graditi. Sono due ritorni, già che, come sapete, bruxellando negli anni ha intessuto più di una relazione con tanti giovani artisti, alcuni dei quali oggi noti non solo in Italia ma anche altrove. E anche il primo ospite di questa sera credo possa iscriversi in questa linea, già che è diventato anche molto popolare all'estero con una sua raccolta di poesie che tanto successo gli ha dato oltre Alpe. Mi riferisco a Gastone Cappelloni, una delle presenze storiche di Bruxellando, già che negli ultimi anni ci siamo spesso intrattenuti con lui e soprattutto sulla ricchezza, sulla varietà della sua poesia. Ritorna poi, devo dire con gioia, perché è una delle scrittrici che pure abbiamo seguito, potrei dire, dagli albori, dal 2008, quando Bruxellando iniziava a camminare a malapena, quindi quando eravamo ancora gattoni a cercare di farci conoscere, Isabella Borghese, che ha scritto tanto, è un'autrice giovanissima e scrive davvero tanto e su più temi, e questa volta mi ha sorpreso. Isabella riesce veramente sempre a stupirmi, non solo con il suo stile acuto e spesso davvero dritto al punto, veramente qualcosa di eccezionale, raro in una persona della sua età, e soprattutto per questo tema infinito, infinito come sono le puntate che potremmo dedicargli, che è il tema dell'amore. Isabella preferisce affrontare questo tema però dal lato dell'infelicità, già che, come recita il titolo stesso, le storie infelici non finiscono mai, gli amori infelici non finiscono mai. Quindi questa probabilmente è una triste verità per quanti di noi hanno o sanno che cosa vuol dire affrontare una delusione d'amore. C'è una frase molto bella, prima di passare a entrambi i nostri ospiti, che mi ha colpito del libro di Isabella, e poi ne parleremo anche con lei, ma questo è solo per darvi un po' il sentore di quella che sarà la nostra puntata di questa sera, e ve la leggo questa frase davvero molto bella. Esiste un amore con la maiuscola che almeno una volta nella vita non sia stato anche crudele? E io penso che qui ci affidiamo veramente alla sensibilità poi di ciascuno di noi. Saluto Daniele alla regia, che è di là dal vetro. Saluto tutti voi, cari amiche, cari amici all'ascolto, già che so che siete tanti. Quindi rilassatevi, la giornata sta volgendo veramente verso la fine, quindi quanti sono già a casa, quanti stanno preparando la cena, quanti invece sono in macchina ad ascoltarci, riposatevi, rilassatevi, perché vi aspetta una gradevole puntata di Bruxellando. Tra l'altro saluto invece tutti coloro i quali hanno la possibilità di andare in vacanza, già che questa è una settimana di vacanza, e quindi un augurio veramente di serene vacanze per queste prime vacanze autunnali, e un saluto particolare anche a tutti i bambini che sono stati in particolare nostri ospiti la settimana scorsa, ospiti nel senso che c'è stata una ricca agenda culturale proprio per i bambini, in attesa per l'appunto di questa settimana di vacanza. Non mi prolungo oltre. Dani M dalla regia mi fa segno che, data la mia voce, sarebbe meglio lanciare un piccolo suggerimento musicale, e quindi io dico così sia, e ritorneremo in studio in compagnia di Gastone Cappelloni, che vorrei fosse qui con me questa sera in studio, ma in realtà è a casa in Italia, e quindi lo raggiungeremo telefonicamente, ma ci accompagnerà per i prossimi più o meno 15 minuti. A tra poco! Cari amiche, cari amici, dopo il suggerimento musicale, come annunciato in apertura, sono molto felice di riavere qui con noi il nostro ospite Perdonatemi, lo dicevo pure prima, è qui con noi sicuramente con la sua voce, ma in realtà lo stiamo raggiungendo in Italia, e mi riferisco a Gastone Cappelloni, che ritorna quindi nuovamente ai microfoni di Radio Alma di Brussellando. Gastone, benvenuto a Brussellando. Ciao Marilina, grazie. Buonasera a tutti. Oramai non sono ospite perché è il quarto anno che partecipo in maniera così attiva e ne sono onorato veramente di essere ancora con voi. Grazie Marilena, grazie allo staff, a tutti voi, di avermi ancora con voi, di darmi la possibilità di salutare gli amici italiani e non. Gastone, allora raccontaci un po', noi ci eravamo sentiti penso più di un anno fa, quindi era l'inizio, come sempre accade, dell'edizione di Brussellando dello scorso anno, eppure sono successe tante cose nella tua vita, tanti riconoscimenti, viaggi anche importanti che hanno celebrato soprattutto la tua poesia. Ce ne vuoi parlare un po'? Eh sì, come avevamo appena accennato con il libro che ti ho inviato, l'ultimo, il 19° in ordine d'uscita. Questo è un libro per me importante, non solamente perché è italo-spagnolo, dedicato un po' a tutti gli italiani emigrati nel mondo, ma in particolare allo zio, perché questa è una storia che non ho mai modo di raccontarla, ma nel 1950 mio zio Lino, fratello di mio padre, è emigrato in oltreoceano, a Mar del Plata, ecco. In Argentina, giusto? Sì, in Argentina. Ecco, il libro prende il titolo Un seme oltreoceano, proprio perché era un legame talmente forte che doveva continuare con qualche cosa, che poi continuasse a volare, ma non solamente nel cuore, ma anche nella carta stampata. Era una promessa che ho fatto a mio padre, non della pubblicazione del libro, perché il progetto è nato l'anno scorso a agosto, ma avevo promesso a mio padre che questo filo non si sarebbe mai interrotto con l'Argentina, con lo zio e con mio cugino, il figlio di mio cugino, oramai a Mar del Plata in Argentina, oltre che lo zio, vivono altre due generazioni, e di conseguenza è un legame ancora più forte. Ma allora dimmi, toglimi una curiosità, molto spesso quando soprattutto si deve scrivere, e quando si scrivono poesie mi insegnerai che il processo di scrittura sicuramente è più lento, quando è nato, quando si è concretizzato nella tua penna questo progetto per te tanto caro? Ma si è concretizzato l'anno scorso tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, siccome la traduzione è opera di Anna Caligiuri, poetessa di Tandil. Mm-hmm. Parlando così, sai, a volte esprimi dei desideri, io un po' mi sono reso conto nel tempo cosa voleva dire. Mi ho detto, mi piacerebbe presentare il libro in Argentina, ma dedicarlo un po' allo zio. E lei mi ha detto, guarda che non c'è nessun problema, anzi, felice di aiutarti. E c'era quella convinzione, però poi mi sono reso conto cosa voleva dire volare in Argentina, rimanere 8 giorni e presentare non solo Mar del Plata, ma anche altre due città, proprio perché io non parlo la lingua. Sono stati dei problemi. Poi quando sono tornato mi sono reso conto, non dico dell'insormontabilità del tutto, ma quasi, e devo ringraziare un po' tutti, perché veramente è stata una rimpatriata importante, e non solo, ma grazie a tante persone che mi hanno aiutato, mi hanno dato una mano anche per spostarmi logisticamente, altrimenti, però mi sono reso conto quando è stato importante, però nello stesso tempo mentalmente ci ho lasciato veramente un po' anche quelle fatiche, credetemi, sono state importanti, che dopo 3 mesi ancora l'avevo detto, però devo dire che raccontare le emozioni, la felicità è impossibile. Questo lo immagino, però mi dicevi anche un altro dettaglio prima, che il tuo paese, quello dove vivi in Italia, è gemellato con questo paese argentino, quindi immagino ci sia stata una grossa festa organizzata anche dalle autorità locali lì in Argentina. Eh sì, perché Sant'Angelo del Vado, il paese dove io abito, non marchigiano come forse molti ricordano, ma molti non sapranno, terra dei leopardi, siamo gemellati con Mar del Plata proprio perché c'è una, diciamo, una grossa colonia, chiamiamola colonia, una grossa rappresentanza dei miei compaesani. E allora quale migliore rimpatriata riportare Sant'Angelo in mezzo agli amici, anche perché là tanti amici di famiglia di mio padre, di mia madre mi aspettavano. Poi qualche come ho cercato di sviluppare il progetto subito in essere, là è iniziato quel tam tam, mi aspettavano non a bruciare paese di più, anche perché poi a volte dico, ecco, mi sono reso conto che gli italiani a volte sono loro all'estero, voi all'estero, non noi che viviamo la realtà tutti i giorni, l'abbiamo persa di vista quella realtà, quel contatto, che cosa vuol dire rimanere nella propria terra. Ma loro questo contatto solamente immaginario, fino a qualche, perlomeno fino a qualche anno fa, si sentono veramente italiani e orgogliosi di esserlo, non perché noi non lo siamo, ma noi ce ne dimentichiamo a volte. Questo è vero, a volte anche noi qui a Bruxelles abbiamo l'impressione che effettivamente quando si parla del Made in Italy effettivamente ci sia ancora una sensazione veramente di, come se ci fosse ancora un'aurora intorno a quello che è il nostro Made in Italy, e poi invece mi rendo conto quando vengo in Italia che effettivamente invece questo orgoglio, vogliamo, questa nostra appartenenza forse viene sottolineata un po' di meno. Ma torniamo alla tua poesia. Che cosa hai provato a leggere? Che cosa hai provato quando hai letto, quando qualcuno ha letto per te le tue poesie in spagnolo, in questa lingua simile all'italiano eppure totalmente diversa? L'emozione è stata doppiamente meravigliosa, proprio perché un idioma diverso, senti, immaginare, perché immaginavo che quella fosse stata una mia poesia letta in un idioma diverso, mi ha catturato talmente tanto che non riuscivo a capacitarmi. Però dimmi un'altra cosa, la tua esperienza poi spagnola, di la verità, ci hai preso gusto, perché è continuata, non si è fermata nelle lande argentine, ma è andata ben oltre. Sì, perché poi, come si suol dire, l'appetito che mangiando, e il cuore ha iniziato un po' a goderne di questa cosa. In gennaio-febbraio ho dedicato il viaggio all'Argentina e sono rientrato sabato mattina da Madrid, dove al Comites italiano ho presentato il mio libro. E invece che cosa hai potuto percepire? Quindi hai vissuto una realtà, diciamo, di lingua spagnola in Argentina, quindi proprio in un continente diverso, poi invece hai continuato questa tua esperienza sempre in lingua spagnola e nella terra invece di Spagna, questa bellissima terra ricca di cultura, tradizioni, tanto vicina soprattutto a noi meridionali, date le origini anche storiche delle nostre terre e via dicendo. Hai notato delle differenze? L'accoglienza è stata diversa? Ci sono sfumature che ti hanno colpito in entrambi i viaggi? Raccontaci. Ci sono state sfumature diverse. La prima importante, a Mar del Plata, mi sentivo proprio a casa, anche perché là ancora vivono tanta gente di prima generazione, e parlando con loro, scambiarsi di Dio quant'altro, ma non solamente, è stata una rimpatriata proprio perché gente che non parla italiano, persone che non parlano italiano, ma dialetto, solamente con lo zio, spagnolo e dialetto, loro le appartiene, proprio perché certo. loro l'hanno vissuto e sono partiti con quell'idio, con quel dialetto. E allora avere la possibilità di parlare, diciamo, con un italiano che figlio e nipote, già un emigrante, nel loro dialetto, per loro è stato un qualche cosa da completati, proprio per, non perché non ne parlano, ma tra di loro, però il fatto di ci sono riusciti nel paese. Certo, certo. Di un loro amico, di trovarsi lì, ecco, e invece in Spagna, per quanto importante, però lo sentiva molto, ma molto di meno, diciamo, la rimpatriata. Quindi effettivamente quello che ci vuoi dire è che le radici, in effetti, sono molto più radicate magari in questa terra, magari anche dovuto alla lontananza, perché è molto più facile rientrare da Madrid in Italia che da Buenos Aires. Ecco, all'Italia. Guarda, è una cosa che tante volte tengo a sottolinearla, perché io non sono lo zio Lino che è emigrato in Argentina, ma anche uno zio che è emigrato a Nice in Francia nel 55-56. Ecco la differenza, che per quanto lo zio è emigrato, ma lui aveva la possibilità quelle 4-5 volte all'anno, anche di più, tornare a trovare il nonno, mio padre, quant'altro. Invece lo zio, la prima volta dal 50-78, da 50 e poi mi è tornato un 78 e poi il 96 nel 1996, perciò in 60 anni quasi è tornato solamente due volte. Quindi c'è anche una verità, che le distanze comunque influiscono in un modo o in un altro anche nel nostro senso di appartenenza. A proposito di distanze, a proposito di distacchi, posso leggere una tua poesia molto velocemente? Sono felice. Allora, datemi un secondo così che... Sono nato negli anni che non ricordo, troppo intento a delimitar mentali confini e decifrar tragitto e solitudine, nelle ridenti notti di incontaminati candori, di fragilità impaurite, nelle trincee di gioventù senza luccichii, a riordinar fantasie, come piume di apatie, nelle raucedini di stelle promesse. Bravo, devo dirlo io a te, perché sono parole veramente molto belle che esprimono il viaggio di chi è partito, di chi ha affrontato quel tragitto, e non era semplice quando ancora le distanze si percorrevano in nave. In questo caso oggi è molto facile viaggiare, soprattutto quando si viaggia in aereo, perché non si sente il peso dei chilometri, ma allora, soprattutto quando si partiva con una valigia di carbone, sicuramente le sensazioni, le emozioni non erano le stesse. Gastone, il tempo in radio, come sai, è abbastanza tiranno, però sono curiosa di sapere, hai tempo ancora, continui a scrivere? Vorrei leggere anche la versione in spagnolo, però questo forse lo farò più tardi, perché mi devo esercitare un secondo. Mi devo esercitare un po', ma ti prometto per la fine della puntata che ti leggerò anche l'equivalente tradotto da Anna Caliuri, spero di pronunciare bene il cognome, a fine puntata. Quindi dovrai pazientare qualche minuto, perché potrai poi riascoltarmi in streaming. Ma guarda che per me è un onore, perciò pazienterò tutto il tempo che vorrai. Ah, guarda, allora facciamo una cosa, allora dimmi a che cosa stai lavorando, così intanto magari riesco a leggerti la poesia proprio adesso, tra un minuto, il tempo di memorizzare bene alcune parole. Sto lavorando al nuovo libro e uscirà alla fine del prossimo anno, e sarà un libro dedicato interamente alla donna. Che bello, oh, mi fai proprio felice, questo mi sembra essere veramente un omaggio, soprattutto da un uomo italiano, considerando quello che sta accadendo e che continua a verificarsi in Italia ai danni delle donne, quindi mi sembra essere veramente un regalo bellissimo, non solo alla sottoscritta, ma a tutte le ascoltatrici che ci stanno ascoltando a Bruxelles e dall'Italia. Allora, cari amiche, cari amici, mi ascolterete recitare questa poesia in spagnolo. Non me ne vogliano gli amici spagnoli in ascolto, perché so che ce ne sono tanti, soprattutto coloro i quali vogliono ripetere o stanno imparando lo spagnolo, ma è un gesto ovviamente di amicizia verso Gastone, e vedrete com'è bella la sinfonia anche delle parole spagnole di questa splendida poesia di Gastone. Nací en los años que no recuerdo, excesivo esfuerzo para delimitar confines mentales y descifrar trayecto y soledad en las risuenas noches de puros candores, atemorizados de fragilidad en las trincheras de la juventud sin lustre, a reordenar fantasías como plumas indolentes en la afonía de estrellas prometidas. Ebbene sì, non so molto bene quale sia il risultato, ma chiederò domani ai miei amici spagnoli che, come sapete... Lo spagnolo però devo dire che si è arrivato al cuore, veramente. È quello che dicevo prima, ci sono similitudini tra queste due lingue latine molto belle, tra l'altro il mio dialetto cilentano, in parte anche napoletano, basa anche molto delle sue radici, delle sue parole, proprio in questa lingua calda, mediterranea, latina. Gastone, noi ti ringraziamo per questo momento di straordinarie emozioni, che come sempre possono avvenire solo quando c'è una bella sintonia con gli autori. Ti auguriamo tutto il meglio e soprattutto, come ti ho sempre detto, tienici al corrente di quelle che sono le tue attività letterarie, e sono certa che ci sarà ancora un momento di incontro qui a Radio Alma e a Bruxellando. Oramai mi sento di casa, e tu sai che tutte le volte che Marilina chiamerà Gastone niente, proprio con il piacere e l'affetto che mi dica a te e a tutti gli amici. Bene Gastone, noi ti auguriamo veramente un forte forte in bocca al lupo e speriamo veramente di risentirci presto. Grazie, un abbraccio agli amici di Radio Bruxellando, la trasmissione Radio Bruxellando, con la promessa di sentirci presto. Assolutamente, questa promessa noi ovviamente ce la siamo segnati, ce la siamo scritta, quindi ci teniamo molto. Grazie, grazie di tutto. Buona serata. Buona serata a voi. Grazie. Ciao, grazie, ciao Marina. Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, è una puntata, come avete potuto constatare fino ad adesso, ricca ricca di contenuti. Passiamo dalla poesia del nostro amico Gastone Cappelloni e passiamo invece ad un'altra delle autrici preferite di Bruxellando, e cioè, come annunciato in apertura, Isabella Borghese. Isabella, benvenuta a Bruxellando, a Radio Alma. Grazie, un saluto a tutti. Allora, ritorni dopo qualche mese, perché in realtà ci eravamo sentiti, penso, proprio alla fine della precedente edizione. Con una bella bici che va. Esatto, con una bella bici che va, con questo bel colore rosso, insomma, che era un po' il protagonista di questi tuoi racconti. E ora invece ritorni con un romanzo, a mio avviso, veramente ben fatto, costruito, in cui posso dirlo pubblicamente perché ormai le passioni di Mariddì sono abbastanza note anche agli ascoltatori, ho trovato un miglioramento di stile, di scrittura, una scrittura più matura, consapevole e soprattutto ricca. Ti ho trovata cresciuta anche nella tua scrittura, quindi è una scrittura veramente che diventa più consapevole. E mi ha fatto anche sorridere, ma veramente in maniera appassionata, il tema che tu hai deciso di trattare, che non è solo quello dell'amore, perché il titolo, lo dicevamo prima in apertura, è Gli amori infelici non finiscono mai, ma ci sono tante cose che tu ti porti dietro nella tua scrittura, a parlare dal tuo impegno sociale, Roma, che è proprio sentono che questo odio amore che, che vivi al quotidiano. Quindi partiamo prima dalla struttura del romanzo stesso e poi percorriamo per l'appunto queste tue pagine bellissime, dense anche di storie che si intrecciano. Come nasce questa tua ultima fatica letteraria? Dunque, gli amori infresci non finiscono mai, intanto sicuramente nasce con l'idea di raccontare la storia di un uomo che io chiamo l'uomo senza volto, che è un uomo che non riconosce volti delle persone ed è affetto di prosopagnosia a seguito di un incidente stradale, quindi lui non riconosce il suo volto allo specchio, non riconosce i volti di nessuna persona, neanche dei propri familiari, neanche della moglie. E quindi avevo voglia di raccontare questa storia perché appunto avevo conosciuto questo deficit percettivo attraverso la lettura dei romanzi di Oliver Sacks e di uno psichiatra che ha scritto Prosopagnosia di un mondo di facce uguali, e quindi avevo visto che appunto in Italia nessun autore ha trattato questo tema a livello narrativo e mi era parso soprattutto un bellissimo esercizio di scrittura, perché dare vita a un personaggio che non riconosce i volti delle persone significa creare un personaggio che riesce a comunicare attraverso i profumi, che riesce a comunicare attraverso la voce, ed è un personaggio che appunto che in qualche modo si deve riabilitare ad una nuova vita e quindi deve riuscire anche a muoversi e a convivere con un nuovo sé che appunto con cui all'inizio fa fatica a familiarizzare. Certo, allora diciamolo lentamente, quindi tu hai scoperto insomma questo, chiamiamolo deficit, questa difficoltà che si chiama prosopagnosia, e lo scrivi molto bene proprio in apertura del romanzo, che la difficoltà principale è l'inabilità a imparare volti nuovi e riconoscere facce familiari. Esatto. Ma questo deficit, diciamo, questa deficienza, tu l'avevi scoperta per caso leggendo altre cose? Sì, io avevo letto in passato i romanzi di Oliver Sacks, più che romanzi appunto sono quasi sempre libri in cui lui racconta la storia dei suoi pazienti, lui stesso appunto è affetto di prosopagnosia e sono storie che mi hanno sempre colpito molto perché comunque mi hanno affacciato alla conoscenza di persone che a me non è mai capitato di incontrare, e di aneddoti che a volte possono sembrare anche buffi o anche grotteschi qualche volta, però in realtà appunto sono chi è affetto di prosopagnosia può vivere normalmente se non ha appunto questa prosopagnosia a livelli molto gravi, però sicuramente sono persone che devono appunto imparare a convivere riuscendo ad adattarsi e sviluppando altri sensi, perché appunto non possono riconoscere i volti delle persone a meno che non abbiano delle caratteristiche particolari. Certo. Come può essere un naso grosso, un neo sul viso, quindi tutte caratteristiche che poi appunto la persona memorizza, a quel punto riesce a ricordarsi chi ha davanti. Certo. Però cioè, come nasce quindi questo tuo uomo senza volto? Perché insomma un'autrice giovane tra l'altro come te che si presta a questo esercizio comunque estremamente interessante di raccontare la vita di un uomo che a un certo punto non riconosce più volti. E questo poi implica tutta un'altra serie di difficoltà che il tuo protagonista vive, descrive e racconta nel tuo romanzo. Quindi come hai sviluppato il personaggio? Dunque, io il romanzo l'ho sviluppato appunto raccontando e facendo parlare quest'uomo in prima persona, che durante il romanzo racconta sia la sua vita passata, quindi appunto partiamo dal ricordo di questo matrimonio, perché è un uomo che è sposato con una donna che si chiama Clorinda. E all'interno appunto di questa storia lui racconta quella che è stata, racconta il suo passato, ma mentre racconta il suo passato fa i conti con il suo nuovo presente, che è appunto quello di dover familiarizzare con questa sua incapacità di riconoscere i volti delle persone. Quindi lo vediamo muoversi sia dentro casa dove però poi lui stesso a un certo punto, mi sembra nel primo capitolo, gli faccio dire che per lui comunque è più facile muoversi fuori casa che dentro casa, perché comunque diciamo che per me è molto importante che quest'uomo si confronti con il mondo nonostante il suo deficit percettivo. Certo. Quindi lo faccio muovere dentro casa e lui si scontra, si guarda allo specchio, non si riconosce, quindi per vedere se è lui, perché pensa di aver incontrato un'altra persona, si deve dare dei pizzicotti, e quindi mentre si tocca la guancia e vede l'uomo allo specchio che si tocca la guancia, capisce che è lui. Però lo vediamo muoversi anche appunto fuori, quindi significa nel supermercato, significa vederlo appunto con degli studenti a cui lui fa, in realtà quello dentro casa fa, a cui fa ripetizione, e lo vediamo poi soprattutto impegnato in un ultimo gesto di amore nei confronti di una donna che lui ha amato molto, che si chiama Gisella Montar, e che lui in qualche modo ha abbandonato, o comunque non vede più da quando appunto da quando è affetto di prosopagnosia. E quindi lo vediamo muoversi davanti a una libreria dove lui acquista dei libri di questa Gisella Montale e li rivende ai passanti. E anche lì lo vediamo muoversi e comunque confrontarsi con personaggi che passano davanti a lui per entrare in libreria e che lui ferma proprio con l'obiettivo di vendere queste copie dei libri, peraltro dicendo e specificando anche che lui, consapevole delle difficoltà dell'editoria, fa questo gesto per assicurarsi che in qualche modo vengano venduti dei libri. Quindi lui dice: tutti dobbiamo mettere il nostro contributo a favore e per il sostegno dell'editoria, e quindi accanto a questo suo ultimo gesto di amore nei confronti di questa donna che non vede, c'è questo desiderio di voler in qualche modo aiutare le sorti dell'editoria. Quindi lì ci sono anche aspetti che toccano il quotidiano della nostra realtà. Quindi il primo protagonista, possiamo dirlo, è l'uomo senza volto. Però, sì, esatto. Però, come dicevamo prima, per l'appunto ci sono più storie che si intrecciano, perché poi c'è invece Esther dall'altro lato, che è una giovane precaria che vive a Roma e che soprattutto prende tutti i giorni questo autobus 60, e te lo raccontavo anche prima, il 60 è anche una delle linee qui a Bruxelles che è sempre o quasi sempre in ritardo, e si muove tra personaggi singolari, no? L'uomo del suicidio premeditato, la donna silenzio, la signora impertinenza, quindi sì, dunque, allora Esther è il, quindi raccontaci di Esther, la protagonista femminile del romanzo, e lei la vediamo muoversi in sostanza in due capitoli che si muovono in parallelo e che vengono ripetuti tre volte. Uno appunto è il capitolo proprio dedicato a Esther, in cui lei in prima persona racconta tutta la sua storia passata, e quindi ricorda una storia d'amore che ha avuto con un uomo che si chiama Laios e che non vede più da moltissimo tempo, e dopodiché la vediamo muoversi su questo autobus dove lei osserva tutti i passeggeri, ma lei è sull'autobus per raggiungere l'uomo senza volto, perché essendo una precaria dell'editoria vuole raccontare la storia di un uomo che non riconosce i volti delle persone, e quindi per farlo si reca davanti a questa libreria. La vediamo quasi sempre seduta su una panchina, cioè la immaginiamo, racconta, certo, che lei sta seduta su una panchina e osserva quest'uomo che sta davanti a questa libreria a vendere dei libri. A volte lui cerca di comunicare con lei, ma lei non parla, non gli risponde, perché il suo obiettivo è semplicemente stare lì ad osservarlo. Quindi ci sono storie nelle storie che si incontrano senza in realtà incontrarsi mai. Però allora c'è una domanda, no? che mi sorge spontanea: perché gli amori perché questi amori sono infelici e perché non finiscono mai? Come mai hai voluto darci questa? Io quando ho scelto il titolo del romanzo l'ho scelto pensando intanto a una minima parte della storia, perché per me questo non è un romanzo d'amore, ma l'amore diciamo che mi è servito in qualche modo per unire una serie di storie che sono secondo me più importanti all'interno del romanzo, appunto quella dell'uomo senza volto e quella dei personaggi che vivono su questo autobus e di questa donna, quindi comunque c'è arriva dopo in qualche modo l'amore. Dopodiché c'è una pagina in cui io faccio scrivo delle riflessioni, insomma ogni tanto esce anche la mia voce, quello che io chiaramente c'è quello che io penso sui temi che ho trattato, e io credo fermamente che tutti gli amori sono anche infelici, e credo che spesso noi andiamo alla ricerca della felicità nelle relazioni sottovalutando il fatto, cioè ignorando il fatto che l'infelicità fa parte, così come la felicità del nostro quotidiano. Noi facciamo sempre molta fatica, no, ad accettare anche le brutture che ci arrivano in qualche modo, e invece le relazioni, ma questo al di là dell'amore in generale, tutte le relazioni mancano sempre di qualcosa. E quindi per me gli amori infelici non finiscono mai. Guarda, banalmente è una battuta che ha fatto una signora sul treno. Ieri tornavo da Bologna e parlando con una signora di questo romanzo, quando lei ha saputo il titolo mi ha fatto: capirà, io sono 40 anni che litigo con mio marito, e questo è il tipo di amore che non finisce mai, cioè litigo con 40 anni con mio marito, ma è mio marito, insomma è come dire, l'amore è fatto di cose belle e anche di cose brutte, non è l'infelicità masochista della Norwood con donne che amano troppo, per intenderci. Allora voglio condividere con i nostri amici all'ascolto due frasi, e se ce la facciamo forse tre, che ho estrapolato leggendo il romanzo. E la prima ovviamente è una provocazione che tu scrivi, dove dici: esiste un amore con la maiuscola che diremmo una volta nella vita non sia stato anche crudele? E invece questo è un pensiero molto profondo, dove tu dici chiaramente: un amore riconosce la sua fine solo quando la nostra memoria non è più in grado di evocarlo. Esistono amori che alla lunga sono più dolorosi degli abbandoni stessi. Tutti gli amori, per essere, penso, veri, non possono privarsi dell'infelicità. Lasciarsi qualche volta significa imparare a capire la vera essenza di questo sentimento così vivo e rocambolesco. Questa è un po' la spiegazione forse del titolo. E poi c'è una frase molto bella che tu fai dire ad Esther mentre lei attende questo 60. Scivolo via ad aspettare il 60 con la lentezza con cui il tempo finge di trascorrere, mentre si fermi ad attendere qualcosa che non arriva. Sì, esatto, perché peraltro una cosa che mi fa piacere dire è che nonostante ci siano chiaramente molte cose differenti con il romanzo di Sandor Marai, io alcune atmosfere ho tentato e ho cercato di trasformarle, ma in qualche modo anche di mantenerle. Una di queste è stata appunto l'attesa, e nel romanzo di Sandor Marai c'è questa Esther che aspetta questo Laios, e sostanzialmente anche in questo romanzo questa Esther per lungo tempo si interroga dove sia finito il suo di Laios, e c'è un'attesa, continuo, e c'è anche un silenzio molto... cioè io dico sempre che questo romanzo è ambientato a Roma, ma è ambientato anche nel silenzio, perché ci sono tutti personaggi che laddove cercano di comunicare fino a un certo punto, ma quindi parliamo forse fino alle ultime 20 pagine, sono quasi tutti personaggi che cercano di comunicare con chi li avvicina ma non vengono ascoltati, quindi è come se parlassero a vuoto. Poi c'è il silenzio dell'amore, di quando si aspetta qualcuno che non c'è più. Ci sono lunghi momenti in cui appunto la protagonista sta proprio sola nel senso oggettivo del termine, c'è la solitudine e il silenzio di quest'uomo senza volto che cerca di familiarizzare con la sua nuova condizione di vita, e io ogni tanto Adesso non so se proprio nello specifico sono riuscita a far passare appunto questa cosa, però io ogni tanto ho interrotto proprio delle scene, dei momenti, facendo delle piccole riflessioni sul silenzio, perché mi è parso proprio che ci fosse tantissimo silenzio dentro questo romanzo. Non solo c'è tantissimo silenzio, ma c'è una frase molto bella che tu scrivi, e quindi nuovamente ti cito: c'è un silenzio che diventa riflessione, conoscenza e anche scoperta di se stessi. E quindi permettimi ancora una domanda, perché c'è un modo di aspettare però che differenzia Esther dal tuo uomo senza volto, perché l'una attende osservando quest'uomo senza mai rivelarsi, mentre invece c'è quest'uomo che ricomincia dal nulla, per l'appunto dal silenzio, per riconoscere e riscoprire se stesso. Esatto, quindi, sì. Quindi c'è una tensione anche letteraria diversa tra i due, personaggi che io intanto quando io ho scelto di farli quando io ho scelto di scrivere questo romanzo in prima persona, e quindi ho scelto una voce maschile che in parallelo avesse una voce femminile, ho cercato di differenziarle molto per evitare appunto, beh, io comunque sono una donna e quindi ho cercato di fare quanto più possibile per distinguere la voce maschile da quella femminile. E poi lui è un uomo che anche quando sta in silenzio è un uomo che inevitabilmente ho cercato di far muovere tantissimo fuori da casa, perché è un uomo che deve vivere la sua vita, e quindi anche se ha questa nuova condizione che con cui lui ancora non ha familiarizzato, comunque un uomo che noi lo vediamo muoversi per strada, nella libreria, con degli studenti, cioè non è un uomo che si chiude e che resta, si rintana dentro casa. Lei invece è una un personaggio che ho costruito fondamentalmente una donna secondo me più riflessiva, una donna che osserva, e quindi che poi anche mentre osserva comunque è un personaggio femminile che sostanzialmente aspetta, non sapendo poi a un certo punto non si capisce bene la cosa stia aspettando, cioè se sta aspettando più che altro senza ritrovare qualcuno, o se sta aspettando perché riuscirà a ritrovare qualcuno. C'è un luogo che io insieme al silenzio e più che altro all'attesa che ho cercato di riportare dal romanzo di Sandormare nel mio, c'è un giardino che io ricordo sempre del romanzo di Sandormare, in cui la sua Esther incontra una zia con cui parla di Laios, e nel mio romanzo è diventato un cortile di un ospedale, mm-hmm. Dove la mia protagonista sta lì, che continua ad aspettare, che continua a interrogarsi, a ricordare il suo passato. Quindi c'è anche proprio forse anche un po' un silenzio dell'anima, no? Quando certo. Uno sta in silenzio e riflette, ricorda, cerca di darsi delle risposte. D'altronde lo dici anche tu, l'infelicità come nella vita fa parte dell'amore stesso, altre volte restare da soli, il che insomma quando poi ho ritrovato queste frasi mi è sembrato proprio di trovare l'essenza dei due personaggi, Esther da un lato e l'uomo senza volto dall'altro. Non voglio svelare, se tu sei d'accordo non vorrei svelare oltre, perché questo è un romanzo, no. Veramente è un romanzo da leggere tutto d'un fiato, perché sarete rapiti dalle atmosfere romane e non solo, perché come avete visto ci sono anche luoghi non luoghi che appartengono ai due personaggi. E quindi mi viene spontaneo di chiederti, Isabella, se oggi ti chiedessi allora gli amori infelici non finiscono mai, che cosa mi diresti? Che è il titolo perfetto per il mio romanzo. Quindi credo, sì, che è vero che gli amori infelici non finiscono mai. D'altronde penso che nella vita di... dobbiamo rivalutare tutti di più il silenzio. Nella vita di tutti noi penso ci sia almeno... Ognuno con se stesso. Sicuramente, non solo, ma ci sia stato nella vita di ognuno di noi sicuramente un amore infelice. Conoscendoti, mi viene spontaneo anche chiederti, stai già lavorando ad altro? Su quanti fronti sei impegnata attualmente? E dunque, nel fronte della scrittura sto per partire con due progetti diversi. Uno è più giornalistico e ritorniamo al mondo delle occupazioni, al settore del diritto alla casa. E poi per il romanzo nuovo sto nella fase di sto mettendo tutti gli ingredienti, sto capendo quello che devo scrivere, i libri che mi devo leggere, le tematiche che voglio affrontare. E in genere mi dura un paio di mesi questa fase. Quando la poi ce l'ho tutta pronta mi metto a scrivere, sto mettendo giù appunti, però certo. No, sì, sto in fase di elaborazione. Come dicevo, come mi viene sempre da dire, il momento della promozione dei libri, insomma, mi è successo quando dalla tua parte, che ero molto curiosa e molto contenta di queste promozioni, andare in giro a parlare, a conoscere, a confrontarmi, però dall'altra parte mi viene questa paura di togliere tempo alla scrittura, che a me è un po', forse a me è un po' appesa, no? Cioè il fatto di non stare a casa a leggere, a scrivere, a curare le cose che invece io voglio fare. Io credo che tutti gli scrittori, più che promuovere, amano stare a casa a scrivere. E quindi paradossalmente a me questi periodi di promozione mi fanno concentrare di più quando so, perché ho meno tempo, però riesco a concentrarmi di più nel meno tempo che ho e lo dedico forse quasi tutto alla lettura e alla scrittura. Guarda, mi sembra essere veramente un processo creativo estremamente interessante. Isabella, c'è qualcosa ancora che vorresti aggiungere o un messaggio, un pensiero che vorresti dedicare ai nostri amici all'ascolto? No, beh, mi fa piacere se riesco a raggiungere gli italiani a Bruxelles, di più alla Libri, e lettori italiani, come al solito, spero di venirvi a trovare il prossimo anno per presentarlo insieme a te. E noi ci contiamo e faremo in modo che questo possa accadere, quindi ricordiamo per i nostri amici all'ascolto, Gli amici infelici non finiscono mai, a cura di Isabella Borghese, e soprattutto ringraziamo anche Giulio Perrone, editore, che continua a credere nella forza creativa di Isabella. Isabella, quindi un forte, forte abbraccio, un grande bocca al lupo. Un saluto a tutti e grazie sempre dell'ospitalità in radio. E a prestissimo, spero, chissà, magari tra qualche mese a parlare del tuo nuovo romanzo? Volentieri. Allora, a presto. Un abbraccio, ciao a tutti. A presto. Cari amiche, cari amici, avete ascoltato questa ricchissima puntata di Brussellando. La poesia è ritornata, per l'appunto, con Gastone Cappelloni, Un seme oltre oceano, questa raccolta che ha permesso a Gastone di sperimentare anche una lingua diversa dall'italiano, in questo caso lo spagnolo, che ha avuto modo di poter promuovere in Argentina, quindi in America Latina, e poi a Madrid più recentemente. Quindi in Spagna, qualche giorno fa, perché per l'appunto Gastone era proprio di ritorno dalla Spagna quando lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Ritorna anche Isabella Borghese con una storia ricca di protagonisti, di storie che si intrecciano, di amore, di vite che si raccontano inevitabilmente, e Isabella ci ha fatto conoscere anche purtroppo un deficit chiamato prosopagnosia, scusate se lo pronuncio in questo modo, che è l'inabilità di riconoscere volti già noti e volti poi futuri. Quindi una puntata ricca. Saluto tutti voi all'ascolto, come sempre vi auguro un'ottima settimana, per quanti sono in vacanza, come dicevamo prima, spero che trascorriate delle ottime vacanze, per quanti sono a Bruxelles. Questa sera non abbiamo avuto tanto tempo per parlare di agenda culturale, ma ci sarà molto molto di più sul nostro blog. Continuate a seguirci, giustamente, www.radioalma.eu/brussellando, dove potete trovare sia le nostre puntate in podcasting che gli eventi culturali più importanti. Ringrazio Dani M alla regia, quindi auguro a tutti voi, a tutte voi all'ascolto, una felice, squisita e serena settimana. A martedì prossimo, martedì.